pazzia, mi corrono nel cervello, la sua senza fine, questo mondo che le brio, non ti tene nella strada, non ti tene nei giardini, gente disperata che parla di problemi, mi incontro il futuro, un paradiso esistente, mentre i giovani in piazza crepa lentamente. Combatto con la rabbia, combatto per non morire, è una guerra persa, per chi non vuole strisciare, sui danni organizzate, campagna la vendetta, penso a tutti voi, di massacrare, ho cannone per le mani, ho potere della morte, voglio attento nella mente, cosa che non vuoi capire, ho cannone per le mani, ho potere della morte, è una guerra persa, finito di soffrire. Di soffrire, yeah!